Uno che leggesse il Coelet solo un pezzettino correrebbe il rischio di fraintenderlo. Va letto tutto intero, perché dopo aver sentito nei giorni precedenti il ritornello «tutto passa, tutto è vanità delle vanità, è come un vento che soffia», e oggi sentiamo tutta un'altra musica. Su, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto. In ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza. E tu dici, ma questo è Coelet. Sì, questo è Coelet che cerca di vedere tutta la vita in tutti i suoi aspetti, anche se non manca la frecciata finale, perché non ci sarà né attività, né scienza, né sapienza nel regno dei morti, dove stai per andare a finire. Vedi che viene fuori sempre quell'aspetto un po' disincantato, un po' scettico di Coelet. Uno potrebbe anche chiedersi, ma alla fin fine questo libro parla che ci sarà nell'aldilà un premio, un castigo? Veramente Coelet non parla dell'aldilà. Accenna qualche cosa quando dice che saremo sottoposti a giudizio da parte di Dio. Dunque, un giudizio presuppone sempre un premio, un castigo. Però i libri dell'Antico Testamento raramente sottolineano la vita dell'aldilà. Ce ne sono, basta pensare ai Maccabei, basta pensare a qualche salmo. Però è tutta un'altra storia prendere in mano il Vangelo. Allora qui comprendiamo come l'Antico Testamento è bellissimo, vale, si deve gustare, però è il Nuovo Testamento che porta a compimento. Avete udito che è stato detto così così ai nostri padri, ma io completo il discorso e vi dico. E allora godiamoci queste pagine poetiche di Coelet, che ci insegna tante cose. Ci insegna, per esempio, che la vita è anche bella, però ha una fine. E certe volte, ancora un po' scettico, ti dice: sei come un pesce, che sei preso nella rete fatale, sei come un uccello preso al laccio. Così l'uomo è sorpreso dalla sventura che si abbatte improvvisa su di lui. Ecco, portiamo a casa dalla lettura di Coelet questo clima di vigilanza, questo clima che ti dice sì, sì, è tutto bello, però non è l'ultima parola. Io riassumevo: tutto passa. E andiamo a finire nel Vangelo, che dopo aver letto Coelet è di una apertura, è di uno splendore sulla vita eterna, ma anche sulla vita di qui. Chi segue il Signore, ecco, è bello metterci alla scuola della parola di Dio, è bello leggere Coelet, è bello leggere i profeti, i libri sapienziali, il Siracide, tutti questi libri che abbiamo imparato a conoscere dell'Antico Testamento, ma è bello tenere fisso lo sguardo su Gesù e sul suo Vangelo.